del bandito da tre mesi l'ha posto non è molto risposto dicon che ruba come un gran signore l'espagnuolo la banda di ladri la quitomana e messicana che taccia gaglianda sputa brutta tutto state guardia io mi sdraio sono stanco con lo salute a tutti buonanotte cosa c'è? Frenini Sorrent fra poco no faccia l'incidente e le si prende contro di te ragazzo e questi che la vola mi compagnisco di quei pezzi e sono i tempi e solo se mai vedo giù chi tende per te ti racconti le offese degli ubriachi e capisca che vieni ti volna ti volna mortal Regalías. auroras, eureas. Se li scegliete voi, la qualità non conta nulla, ognuno avrà per me il profumo della van che li tocca. Mi prego a dare in giro ogni vostro sorriso e una consumazione. Ma la lingua mi dona buonasera, sceriffo. Buonasera. Molto meglio. Spirit.

Andavate a trovare in me. che momento appena per riposarmi e al caso tentare un baccarà giocare il vostro nome forse che qui si sa il nome della gente Chancellor, Chancellor e poi vengo da Sacramento e vedo fra voi Johnson di Sacramento grazie vi ricordate di me sì, se anche voi mi ricordate e come non potrei fu bel sentier che vena potrei fu nel tornare Triste un primo sorriso e poi vi dissi andiamo a coglier le more ma io non venni è vero ricordate signore come adesso io ripresi il cammino non ricordo più sì che non ricordate dissi che da quell'ora non avresti scordato avevo scordato mai mai mai Johnson, voi m'avete seccato! Sono Rand Sheriff, non mi lascio burlare. E venite a far qui! Ragazzi! Uno straniero ricusa a confessare perché si trova al tavolo. Chi è, chi è, chi è? Non faremo cantare, faremo cantare. Io lo conosco, il nunzio campo in Peru, sto garante per giunto. Buonasera, Mr. Johnson. Ragazzi, buonasera. Non piacere per lui. Questo cialtrone stenderà quel fare da padrone. Non ho mai ballato in vita mia. Andiamo. Avanti, bimbi. Andiamo pure. Musica. Hip, hip. Giovinetti, e la

Sarà questo fischio. In quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi. E vi lasciano così. Anni no, io rimango qui a vegliarlo, a pulla un po' per uno. Sono nessuno, perché Oh,